Fantastico! Ti è stato assegnato il quadrante dei 135 gradi. La forza nemica è 13,5. Posiziona il tag dado sullo schermo per lanciare il dado e che il fato ti sia favorevole.